Vabbè, ma scusa, la Radio News and Talk, non puoi mettere sta roba qui, tecno, cos'è? Drago, ma oggi, ma lo sai che giorno è oggi? È venerdì, ok. No, no, no, oggi è venerdì. Yeah. Venerdì. Sì, va bene, ascoltatori. Faccio anche come le radio, quelle che non sono News and Talk. Comincia davvero. Venerdì. E tu vedi la macchina di fianco a te, no, il semaforo, sì, con questo volume impressionante all'interno e dentro uno... quattro energumeni che sentono fortissimo ma questa musica. Ma non fanno così con la testa, stanno fermi anche. No, ma c'è qualcuno che però tra di loro dice, uè ragazzi, ma oggi è venerdì. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Credo asilo. Aia, che male! Cosa c'è, K? Temo di avere la sindrome del... Ok, ok, la rifacciamo, sì, scusami. Via! Aia, che male! Cosa c'è, K? Temo di avere la sindrome del tunnel Campari. Eh? Scusa! Che male! Ma cosa c'è, K? Temo di avere la sindrome del tunnel carpale. E a causarlo credo proprio sia stato questo scomodo mouse che uso tutto il giorno in ufficio. Ah, maledetto mouse! Vedi, non occorre che tu cominci subito un costoso trattamento manipolativo osteopatico del tratto cervicale. No, potrei comprare un nuovo mouse. Ma neanche! Osserva la forma ergonomica di questa merendina. Ma è un Wunderwaffer! Esatto, K, che oltre a essere squisito svolge ottimamente la funzione di poggiapolso. Hai proprio ragione! Grazie, collega Drago! D'ora in poi terrò sempre il Wunderwaffer con me, qui sotto il polso, finché marcisce e poi dopo si sbriccia. Ma cosa, che idea è, Drago? Non è che funziona, so. Ma cioè... bisogna arrivare poi al Wunderwaffer, ma bisogna creare delle occasioni in cui la gente si riconosce. Ma la gente chi? Ma vabbè, quelli che lavorano nell'ufficio. Ma non puoi dire... non puoi semplicemente dire alle 5 ho fame, ti mangi un Wunderwaffer. È troppo banale, non ci daranno mai i soldi per... Perché invece il tunnel carpale, l'appoggia mouse fatto col Wunderwaffer, il Wunderwaffer bisogna mangiarlo. Cioè, ne hai uno, non ti è avanzato? Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Oggi cos'è, parliamo di bambini prodigio, vedi? Ma cos'è? Vedi, abbiamo qui una pagina web che sto cercando di far vedere, in realtà stampata, K. Sì. Cerchiamo di spiegare alla radio cosa succede. Allora, qui vedi, c'è... questo è un bambino prodigio che adesso ha 60 anni, 50 anni, però a 4 anni sapeva già parlare 4 differenti lingue, si chiama Kim Ung-yong ed è stato forse il primo bambino prodigio. Applauso, bravo. Ok, bravo. E io volevo arrivare però in realtà a questo qui, guarda che bello. Sai chi è? Ronan Farrow, che è il figlio di Woody Allen e Mia Farrow. Lui ha 24 anni adesso, però è stato un bambino prodigio perché a 11 anni è diventato studente universitario, attualmente ricopre incarichi all'interno dell'amministrazione Obama. Però vedi, lui è bello, invece vedi gli altri bambini. Sì, e degli altri bambini prodigio, guardali, che brutti, poverini. Beh, insomma, sono tutti malati, hanno studiato. Sto qui ha vinto un premio Nobel, come si chiamava? Sta vincendo un premio, ma non lo so. C'è scritto qui, sono tutte notizie che non hanno nessun senso. E allora perché le tipo stai questo, dando, Fabiano Luigi Caruana, che italiano. È del 92, no, no? È un italo-americano, campione di scacchi. Però la migliore, scacchi, la migliore, ragazzi, dov'è? Non lo dov'è? So, dov'è? Dov'è? Dov'è? Ce l'avevo qui, la nostra Moldava, la nostra Isidora, no? La nostra Moldava, ma la chi? Nostra. Quella della barca, la Concordia, quella che era nel salottino? Forse lei. Senti qua. Venerdì. Questa qui è una pop star moldava. Che venerdì. Si chiama Cleopatra. Stratan. E ha tipo 8 anni. Sì. E vende milioni di copie in Moldavia. Ma che milioni di copie in Moldavia? Non c'è neanche i soldi per piangere. Ecco, adesso ha 10 anni, qui ne aveva forse 3, vestita come una lolita, intrattiene il pubblico moldavo ed è considerata tra le 10 bambine prodigio più importanti del mondo. Sentiamo, sentiamo che Cleopatra, mi piace questa. C'è anche il testo della canzone, che ora ti vado a recitare in italo-moldavo. molto interessante. Dice così: il vestitino sta in chiodo, fuori il sole non c'è, niente è buono da quando penso a Ghita, ma Ghita non è in paese. Io mi sono interessata, mi sembra che è andato dopo il confine. Difficile, tanto mi è difficile. Voglio, ma non so cosa voglio. So che tu mi piaci. Di Ghita, che farai? O vieni o te ne vai. O dici sì o no. Io ti prego, non innervosirmi. Ghita, che fai con la tua vita? Ghita, che fai con la tua vita? Ghita, ti aspetto di sera alla porta, lungo la porta della scuola che porta a scuola. Vieni, ma solo non venire come vieni tu, abitualmente, così, a mani vuote, subito. Chi ti aspetta più di me una sera intera, solo per te? Ghita, mostra tu una ragazza che ti ama così tanto. Bisogna essere bambini prodigio, e questo è il futuro. Infatti anche il nostro vice ministro Martone lo dice: se non siete laureati a 28 anni siete sfigati, no? Questo è stato il tormentone della scorsa settimana. Sì, però adesso anche la laurea, quella triennale, vale come il diploma del liceo, visto che hanno svalutato. No, non lo so, no, spiegamelo, lo spiegalo ai nostri ascoltatori. Ma no, ma non lo so, anzi spiegatecelo voi, no? Perché io sicuramente... Wunderwaffer, sì, mangiate, esatto, Wunderwaffer, perché... Aspetta, allora, dunque, aspetta, sta suonando il telefono. Sì, Drago. E ora, bambini, ricreazione. Albertino. Vabbè. Alberto. Dai, saranno sei se mesi. Se state parlando con me. Vabbè. Se no, se c'è un altro Albertino. Ma scusa. È un problema che non mi riguarda. Sono sei mesi che non facciamo più umorismo verbale. Infatti, sul tuo nome. Dai. Adesso la primissima occasione, subito tac. Alberto. Madonna, come sei? È possibile? Beh, perché? Ognuno ha le sue, no? Ci sono poche cose che mi danno fastidio più di queste. Poche, pochissime. E una di queste, forse la più, è quando mi storpiano il nome. Mi storpiate perché siete voi due. Vabbè. Bambino Bertolotti, allora. Presente! Gildo, stai buono lì indietro che non è giornata. Ma perché? C'è Gildo? Certo che c'è Gildo, non lo vedete, poi le sto parlando. Ma no, non lo vediamo. Madonna, che gli stai parlando. Come non lo vedete? Avete bisogno, cioè, da lontano non ci vedete. No, allora, io, infatti io avrei bisogno di vedere un oculista per assumere il Plaquenil. Devo vedere un oculista prima. Però se lo vedo, allora che bisogno c'è di andare da un oculista? Ma cos'è? Benvenuti all'ospizio, sarebbe, Drago, al gerontocomio. Credi che sarebbe giusto? Chiedo gerontocomio. Vedere l'oculista, Tito. Se non lo vedessi, hai capito? Tito. Vabbè, Tito, dai. Bambino Virziur. Virziur. Ma sì. Cosa dici? Bambino Virziur. Che è bambino Alberto, che diventa Berto. Berteur. Birtiur. E poi Virziur. È come Don Virziur. Don Virziur. Virziur. Però bisogna dire che Don Virziur è l'ultimo giorno dell'ultimo mese dell'ultimo anno, il 2011, anche Don Virziur, dopo averne combinate di belle e di brutte, fatto ospedale, fatto soldi, fatto santità, fatto buco di bilancio, fatto suicidio braccio destro, anche Don Virziur è morto. Comunque, bambino Alban Berg, prima parlavamo di bambini prodigio, o bambini prodigi, o bambini prodigi. Bambini prodigio. Prodigi bambino, quella roba lì. Il figlio prodigo. Sì. La storia lì basta, No, vabbè, figlio prodigo non c'entra niente. Figlio prodigio al massimo, ma non è quello. Ma no, quello lì, Suor Dentona ce l'ha sempre su con queste cose, no? Il figlio prodigo, il prodigio. Ma prodigio. No, vabbè, ma non è, allora, i bambini prodigio sono bambini geniali. Insomma, quello che non sei tu, bambino Alberto, no? Che? Come sarebbe? Cioè... Vabbè, scusa, dai, ci sono bambini che ne so, sono maestri di scacchi a 8 anni, altri che a 9 anni hanno girato un lungometraggio. Pensa a te. Cioè, io volevo sapere da te, che invece sei normo dotato, diciamo. Ma normo, parla con Gildo. Che impressione ti fanno questi bambini così intelligenti, no? Ma chi sono? Che all'asilo non ci sono, si vede. No, vabbè, ce lo sono sparsi dappertutto. Anzi, tra i primi 10 bambini geniali del mondo non ci sono italiani. Forse dovremmo chiederci come mai, no? Come mai? Vabbè, ma con genitori come voi. E come i miei. Cosa vuol dire? Voi, diciamo, di questa generazione, no? Di quarantenni. Generazione di quarantenni. Ma che figli geniali volete avere? Vabbè, come al solito. Cioè, con che? Hai capito? La colpa è sempre della famiglia, no? Ma non ho capito, sempre la famiglia, sempre la famiglia. Anche noi dobbiamo prendercela con i nostri genitori. Allora poi loro devono prendersela con i nostri nonni, così via, dove si arriva? Adamo ed Eva, non ho capito. Ci sarà un momento in cui cominciare, no? Allora. Ma più che altro adesso da qualche parte bisogna finire, che è suonata la campanella. Altro che cominciare, infatti. Dai, è finito. È finito. Giusto, Gildo, abbiamo finito. Gildo. meno male che oggi è stata una cosa terrificante. Smettila di parlare con un amico immaginario, ormai sei grande. Allora, questo è immaginario, va bene come idea terretta su niente. Ma almeno questo è qui, guardatelo. Non sarà granché, non rientrare i vostri cani. Sì, vabbè, allora. Ciao, bambino Loredana Bertè. Ma quale Bertè? È Loredana! È Loredana, è bella figa, cioè, 40 anni fa mi dicevano che si diceva così. La Bertè, bella canzone, però anche una bella figa. Bella figa! Queste sono le casse sfondate della macchina dei quattro buzzurroni, che non aspettano altro che sia venerdì. Infatti è arrivato venerdì anche per voi, ascoltatori di Radio 24. Grazie, voi nei vostri uffici di commercialisti, di avvocati, voi ci ascoltate, di dentisti, dentisti, fate le operazioni chirurgiche, sì, sapete che oggi è venerdì, sono quasi le 5. Salutiamo tutti, è quasi l'ora di partire, Laura Faggina, per un weekend, Carmelo Ricciello, Alberto Casarini, e poi anche Chiara Mignemi. A chi è? Guido Bertolotti. Ah sì, lui lo conosco. Poi anche Tito. Tito, sta giù, guarda che venerdì dopo domani andiamo al parchetto e andiamo a fare sci la papa. E dopo andiamo a fare sci la papa. Vabbè, parlo col cane. E Salvatore Iorio? È mica un cane.